come passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Eccoci qui, gentili ascoltatori, 18:38 minuti in questo momento. Numeri di telefono per chiamarci in diretta: 800 24 00 24 è il numero verde, 349 238 6666 per i messaggi SMS, la zanzara@radio24.it. Se volete scriverci una mail, iniziamo subito con i titoli dei telegiornali andati in onda alle 18:30, TG2. Omicidio volontario aggravato. Beppino Englaro insieme ad altre 13 persone indagato dalla procura di Udine. Si tratta di un atto dovuto. Il papà di Eluana ha agito nella legalità. Si è suicidato il gioielliere che a Roma nel 2003 uccise due ladri nel suo negozio. Il PM aveva appena riformulato l'accusa da eccesso di legittima difesa a omicidio volontario. Forte calo dell'economia americana. Nell'ultimo trimestre il prodotto interno lordo è sceso del 6,2%, giù le borse europee, Milano perde circa il 2%. Creato in Texas un robot che somiglia in maniera incredibile ad Einstein. Per ora ha solo il volto e non la genialità del celebre scienziato. Non so a voi, ma a me ha abbastanza sconvolto. Ci sarà certamente una spiegazione ai fatti di Napoli, dove un orco, un pedofilo, come sapete è stato arrestato finalmente, però è stato libero di circolare praticamente per 3 anni, indisturbato, perché la sua prima vittima, secondo alcuni giudici, si era contraddetta. Insomma, non è stato possibile né arrestarlo né fare il processo. 5 anni tra la notizia di reato e la prima udienza a dibattimento, 3 anni solo per chiedere l'interrogatorio dinanzi al giudice della presunta parte offesa. Insomma, un processo mai nato che ha prodotto un'altra violenza, quella nei confronti di un bambino di 12 anni. Sentiamo Studio Aperto. Si è impiccato Massimo Mastro Lorenzi, gioielliere di Roma che nel 2003 sparò e uccise 2 rapinatori. Una settimana fa l'accusa nei suoi confronti era cambiata in omicidio volontario. L'uomo, testimoniano gli amici, era profondamente scosso. A dare l'allarme la sua compagna era coperta di sangue, i due avevano litigato. Trasporto pubblico. I sindacati che vogliono proclamare uno sciopero devono rappresentare il 50% dei lavoratori, altrimenti dovranno ricorrere ad un referendum preventivo. La nuova normativa approvata dal governo prevede anche sanzioni per le astensioni selvagge e i blocchi della circolazione. La tragedia di San Donato, ancora sotto shock, la mamma del piccolo ammazzato dal padre egiziano, un'amica conferma, viveva nel terrore che l'ex convivente le rapisse il figlio, ma le sue richieste d'aiuto sono rimaste inascoltate. Napoli, manetta di un altro pedofilo, avrebbe abusato di una vicina di casa di 11 anni. In carcere l'orco che ha stuprato un 12enne, un'altra bambina, lo aveva denunciato invano. Non sono massaggi, diceva ai genitori, perché non mi credete? Lo scarabocchio, altro che distrazione. Bene, 18:41, 800 24 00 24, la vicenda del pedofilo di Napoli, mai arrestato e in realtà mai processato per diverse vicende giudiziarie, l'avete sentita anche in questo titolo di Studio Aperto. Iniziamo però con una gaffo presunta tale di Berlusconi, scovata dalla televisione francese, da Canal Plus, durante l'ultimo vertice tra Berlusconi e Sarkozy, il presidente francese, a Villa Madama a Roma. Sentiamo il servizio di AGR per chiarirci un po' le idee su quello che è successo. Il canale satellitare francese Canal Plus ha ripescato il labiale del premier Silvio Berlusconi nel corso della conferenza stampa congiunta con il presidente Nicolas Sarkozy durante il vertice italo-francese che si è svolto martedì scorso a Villa Madama. E il mistero su quella frase sussurrata che le président aveva liquidato con un sì imbarazzato è finalmente svelato. Oui, mais... Je t'ai donné la sua donna, on réécoute, on traduit. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi. Moi, je t'ai donné la tua donna, avrebbe detto il cavaliere, ovvia l'allusione all'italianità di Carla Bruni. Una battuta che forse non è piaciuta troppo a Sarkozy, né tantomeno ai presentatori francesi che gli hanno assegnato l'Oscar della volgarità. Oh, Silvio Berlusconi! L'Oscar della volgarità, secondo questa televisione francese. Dunque Berlusconi avrebbe sussurrato, secondo un'interpretazione del labiale, a Sarkozy: ricordati che ti ho dato la tua donna. perché Carla Bruni è italiana, almeno questo capisco io, ma è difficile anche capirlo. Qualcuno esagera naturalmente, per esempio due deputati del Partito Democratico vogliono denunciare Berlusconi alla Corte Europea per le continue e ripetute dichiarazioni di disprezzo sulla vita e la dignità delle donne. Fra poco sentirete 6 secondi in francese in cui Sarkozy, molto imbarazzato, dice: sì, non è il caso che io ripeta quello che mi hai detto. Oui, mais... Je suis pas sûr qu'il faut que je répète ça. No. Non c'è bisogno che lo ripeta, e Berlusconi dice: no, non lo ripetere. 800 24 00 24. Ormai Mentana spopola in tutti i talk show televisivi per raccontare la sua storia, il suo licenziamento, secondo lui naturalmente, da parte di Mediaset, l'allineamento di Mediaset alle volontà di Palazzo Chigi. Ieri anche da Santoro. Siamo in onda con Enrico Mentana al microfono. Ho detto che non esiste solo l'audience, simili scelte tolgono credibilità a chi le compie. Enrico Mentana, benvenuto. Voglio dire, ti accorgi quando passi per rompicoglioni, tanto per parlarci chiaro. Allora, che fine ha fatto il signor Mentana? Che fine ha fatto? Mi ha licenziato e quindi sono a casa. Quando tu la tua parte governa, meno informazione c'è, meglio è. L'indubbia fidelizzazione che c'è stata progressivamente in Mediaset rispetto all'avventura politica di Berlusconi. Allora, Mentana, innanzitutto è un piacere per noi averti qui, insomma, grazie, e ti vogliamo testimoniare anche il nostro affetto. C'è posto per tutti sempre. Certo. Escluso io. Beh, è curioso innanzitutto notare come tutti quelli che in qualche modo entrano in conflitto con Berlusconi diventano i grandi amici e protagonisti comunque ad Anno Zero. E Mentana ieri sera durante Anno Zero se l'è presa soprattutto con l'azienda Mediaset, che ha inviato una nota di procedura disciplinare, anzi ha avviato una procedura disciplinare nei confronti di due giornalisti di Matrix che hanno fatto delle dichiarazioni sull'allontanamento di Mentana come ingiusto, irriconoscente, sproporzionato, brutale, immotivato, traumatico. Sentite Mentana, non prendetevela con loro. Ma non è possibile che per delle opinioni liberamente espresse su Sorrisi e Canzoni, no, uno debba ricevere una lettera di contestazione disciplinare. E perché la riceve? Perché secondo me si vuole evitare assolutamente che ci siano strascichi di questa vicenda e che la lezione, punizione, chiamatela come volete, di Mentana deve essere chiara per tutti. Si riga dritto, si sta tutti dalla stessa parte e non è ammessa la critica interna all'azione dell'azienda. Ora, io dico a media, se potessi parlare come Rastignac con Parigi, non è così lontana, però dico, cioè, dico a media, ve la siete presa con me, io faccio volentieri qui. Io sono tutelato, ho tante cose, sono conosciuto, troverò un lavoro, prendetela con me, ma lasciate stare chi lavora da 20 anni a Mediaset e per il solo fatto di aver vissuto in prima persona quello che è successo ha semplicemente testimoniato quello che è successo. Alle 18.46, queste sono cose interne se vogliamo all'azienda, però secondo Mentana testimoniano ancora una volta dell'allineamento che ci sarebbe in atto all'interno di Mediaset nei confronti di Palazzo Chigi. Siamo in collegamento con Napoli, con Leandro Del Gaudio, che è un bravo cronista di Giudiziaria del Mattino. Ciao Leandro, buonasera. Ciao a tutti, buonasera e grazie per il bravo. Allora, ti sei occupato in questi giorni della vicenda del pedofilo di Napoli. Sentiamo qualche secondo del tentativo di linciaggio da parte della folla in un servizio di questi giorni. Napoletano, 52 anni, impiegato comunale, Pasquale Modestino è stato fermato dopo 2 giorni di ricerche. Sarebbe lui l'uomo che lunedì sera ha adescato, picchiato e violentato un 12enne a Napoli. Ecco, io dico, naturalmente i linciaggi sono sempre da evitare, però forse quelle persone devono indirizzarsi non nei confronti del pedofilo, ma nei confronti di qualcun altro che ha consentito che Modestino girasse libero per diversi anni. Il procuratore generale di Napoli, Lepore, ha dato questa spiegazione del fatto che Modestino fosse in libertà. Sentitelo. Perché dopo la denuncia 3 anni fa Pasquale Modestino era rimasto comunque un uomo libero? Non è messa la misura cautelare perché mancavano le condizioni. Perché in effetti già da quando è stata fatta la denuncia la bambina non viveva più in casa con il Modestino e quindi il collega non ha ravvisato le condizioni che potessero giustificare una richiesta di misura cautelare. Del Gaudio, tu hai capito perché Modestino era in libertà, perché sono passati 5 anni tra la notizia di reato e la prima udienza e il dibattimento che si terrà quest'anno, e 3 anni solo per chiedere l'interrogatorio dinanzi al giudice della presunta parte offesa? Guarda, io ho capito che alla luce di quanto hai raccontato, quello che è avvenuto pochi giorni fa in piazza Caro Terzo, vale a dire lo stupro di un ragazzino di 12 anni, si poteva evitare, doveva essere evitato proprio alla luce di questo prologo giudiziario su cui stiamo ragionando in questi giorni. C'è stato un problema di tempi che oggettivamente hanno sfavorito tutta la macchina giudiziaria e hanno consentito a questo personaggio, che va comunque ritenuto innocente fino a prova contraria, di avere piena libertà di movimento e di agire fino ad arrivare a quel sottopassaggio in cui si è consumato lo stupro. Ma tempi che significa, problema di tempi? Guarda, i tempi sono straordinariamente larghi e c'è una colpa da parte di qualcuno che dovrà essere accertata, perché la denuncia è stata fatta nel 2005, ad ottobre del 2005, la denuncia della nonna della bambina, una nonna acquisita. Ora si arriva all'interrogatorio, come dicevi tu poc'anzi, della bambina, che è l'incidente probatorio, cioè il momento in cui si cerca di congelare la prova da utilizzare in un eventuale procedimento, in un eventuale processo, soltanto a settembre del 2008. E perché tutto questo? E tutto questo evidentemente per deve essere accertato. Deve essere accertato, ma per una lentezza endemica di una macchina giudiziaria che a Napoli fa notizia solo quando ci si trova di fronte ad un caso tanto eclatante, ma che a volte, come viene spesso rimarcato da parte degli addetti ai lavori, è un po' una delle tracce endemiche del sistema giudiziario napoletano. Certo, senti, 3 anni sono passati dalla notizia di reato all'interrogatorio, poi c'è stata la ritrattazione da parte della bambina. Guarda, ma erano passati 3 anni, possono essere successe tante cose. Non naturalmente. C'è stata una ritrattazione completa, per dirla tutta. C'è stato un interrogatorio che non ha dato gli esiti sperati da parte della pubblica accusa, che comunque la sua richiesta di rinvio a giudizio l'ha fatta. La bambina, quando è stata sentita in aula davanti al giudice, accanto a uno psicologo e accanto all'avvocato della parte offesa, la bambina ha detto delle cose, cioè ha detto di essere stata molestata da parte di Modestino. Sì. Però ha anche detto, ha anche aggiunto che le cose che lei diceva le diceva perché nonna Giovanna gliele aveva dette e perché aveva paura di finire in un collegio. Ovviamente tutto, io non faccio né lo psicologo né il sociologo, no, certo. Chiaro. Tutto poi deve essere calato in una situazione familiare molto complicata, familiare, certo. Complessa, e in una immaginazione di un bambino che è sempre molto trasfigurata rispetto alla casa. Ma no, ma per carità, nel caso di Rignano siamo stati molto garantisti e bisogna essere sempre molto garantisti, però alla luce di quello che è successo appare veramente bizzarro, oltre ai tempi larghissimi, come hai detto tu, della giustizia, anche il fatto che questa persona comunque potesse agire liberamente dopo 5 anni e poi ha potuto fare quello che ha fatto. Sì, perché di contro c'è anche da dire una cosa, che almeno 1 anno e mezzo prima dell'incidente probatorio c'era stata una relazione da parte degli psicologi che avevano tracciato la loro diagnosi psicoattitudinale della bambina, nella quale la bambina veniva definita come una persona capace di avere un'attività cognitiva compiuta, equilibrata, perfettamente in linea con la media del ragazzo. No, ma la cosa che colpisce è anche il fatto che, insomma, nessuno poi sembra avere fatto indagini su questo Modestino, sui suoi stili di vita, insomma, nessuno lo ha poi controllato. È stato per anni, nonostante queste denunce, naturalmente tutte da verificare, sostanzialmente abbandonato, no? Certo, perché una denuncia così grave avrebbe comunque necessario una serie di accertamenti, perché poi ricordiamoci che tra uno stato, una condizione di indagato a piede libero e una condizione di indagato agli arresti in carcere, in un padiglione protetto, c'è una via di mezzo, ci sono tante vie di mezzo, ci sono obblighi di firma, di sorveglianza speciale, ci sono possibilità di interdizione di una persona, comunque misure meno afflittive del carcere che potrebbero garantire quantomeno la tutela appunto di un bambino, di un minore a rischio. Il fatto che la piccola non vivesse più con il nonno acquisito rappresenta uno scudo soltanto per la bambina stessa, ma non per gli altri. Grazie a Leandro Del Gaudio. C'è sempre una giustificazione giuridica a tutto, naturalmente, meno per quello che riguarda il buonsenso. 18:54, andiamo a Milano da Diego. Buonasera, Diego. Buonasera. Dica. Io volevo fare un intervento su Mentana, ma mi è sembrato di capire che dice di essere stato licenziato. Sì. Ma lui non ha dato le dimissioni, mi pare. Cioè, cosa aspettava? Cosa pensava? Di essere insostituibile? Ma guardi, Diego, lui dice di aver dato le dimissioni da direttore editoriale di Mediaset e non da Matrix. A un certo punto l'azienda ha deciso invece di troncare ogni rapporto. Qui è in corso anche una vertenza giudiziaria, per cui non posso dire. Certamente dire che Mediaset ha cacciato Mentana, francamente, alla luce del comunicato di Mentana quella notte e delle azioni dello stesso Mentana, mi sembra un po' eccessivo. Però, ripeto, qui entriamo in una questione giudiziaria. Diciamo che Mediaset ha preso l'occasione, evidentemente c'era uno scontento, però senza quel comunicato di notte di Mentana durante la vicenda di Eluana Englaro, io credo che Mediaset non, almeno in quell'occasione non l'avrebbe cacciato, no? Ma Mentana non è abbastanza navigato da capire che dopo essere stato sostituito al TG5 da Rossella, Mediaset non aspettava nient'altro che l'occasione per eliminarlo anche dalla carica che gli avevano dato, che penso fosse solamente, come dire, un promoveatur, moveatur, come si dice, no? No, non lo so, Diego, questa è una sua valutazione. Lei dice Mediaset non aspettava altro. No, ma, forse insomma, non aspettava altro, non lo so. Però non penso che fosse, come dire, la leggo più come un allontanamento di Mentana che come un investire su una figura tutto sommato che io non apprezzo, ma che comunque ma investire, sa, qui ci sono interpretazioni le più diverse. Era stata data una serata in più a Matrix, certo gli orari si spostavano, come dice Mentana, non mi sembra che non venisse valorizzato, ecco, però questa è una mia impressione, poi non sono dentro le cose di Mediaset. E scusi, concludo velocemente, sì. Far passare Mentana, l'uomo che ha tolto dai TG, che ha investito unicamente sulla cronaca come linea fondamentale del suo TG5, come l'ennesima vittima di Berlusconi, uno che ha tolto l'attenzione sulla politica internazionale, politica interna, dal telegiornale come linea fondamentale, non mi sembra proprio, mi sembra l'ennesima furbata della sinistra. Ma non lo so, Diego, poi molti naturalmente sfruttano politicamente queste vicende. Io credo che Mentana non voglia fare il martire, almeno lo ha sempre detto. Certo, fa un po' il giro di tutti i talk show per raccontare quello che gli è accaduto. Alberto da Genova, che non significa fare il martire naturalmente. Alberto, dica. Sì, volevo parlare del PD di Franceschini. Ah, la questione è lunga e andiamo con i titoli del TG3. Obama da una base dei Marines annuncia il ritiro dall'Iraq entro agosto del 2010. Intanto in America crolla il prodotto interno lordo. Via libera alla riforma dello sciopero dei trasporti, cambiano i criteri, arrivi la protesta virtuale, critiche e polemiche. Dopo 5 mesi di cassa integrazione, i lavoratori della Fiat di Pomigliano d'Arco in piazza, al loro fianco tutta la città. Schifani e Fini sul testamento biologico, troppa emotività, serve più tempo per un'intesa, Peppino Englaro e i medici indagati per omicidio. Vicino a Foggia una scuola pubblica rischia di crollare, ma gli studenti fanno lezione regolarmente, protestano i genitori, il TG3 è andato a vedere. Si è suicidato a Roma il gioielliere che nel 2003 aveva ucciso 2 rapinatori, il PM aveva cambiato l'accusa da legittima difesa a omicidio. In Israele fallisce il tentativo del premier incaricato Netanyahu di formare un governo con Kadima, Fatah e Hamas verso l'accordo. Arriva in Italia Live, il film interpretato e prodotto da Eva Mendes contro la TV spazzatura. In reality, dice l'attrice, producono masse di cerebrolesi. Masse di cerebrolesi, Eva Mendes contro i reality, siamo veramente alla follia, oltre che al ridicolo. 19:19, un ascoltatore mi scrive, Alessandro da Padova: solo in un paese come l'Italia un soggetto viene indagato per aver eseguito un atto autorizzato da una sentenza. Ormai l'Italia è una giungla legale e giudiziaria. Alessandro ha perfettamente ragione, naturalmente, anche se questo dimostra che cosa? Che in Italia quando uno viene indagato, immediatamente c'è, cioè, la nozione di indagato viene subito accostata a quella di presunto colpevole oppure lontanamente colpevole. Invece è solamente un atto dovuto. Certo, appare incredibile che ma questo per l'obbligatorietà dell'azione penale, mica per altro. Andiamo a sentire i titoli di Sky TG24. Precipita il PIL degli Stati Uniti, meno 6,2%, mai così male da 27 anni. In Italia impicchiata la produzione industriale, operai Fiat in corteo a Pomigliano. Via libera del governo alla stretta sugli scioperi, no di Epifani, temo svolte autoritarie. Uccise 2 rapinatori, gioielliere si impicca a Roma dopo una lite con la compagna. Eluana, 14 indagati per omicidio volontario, tra loro anche il padre Beppino. Processo Meredith, legali di sollecito al contrattacco, contaminata la scena del delitto. Pedofilia, nuovo arresto a Napoli, 55enne abusava di una bambina di 11 anni. Nell'agenda di Obama il ritiro dall'Iraq, via le truppe entro agosto 2010. I lefebriani non riconoscono il concilio, il Vaticano boccia le scuse di Williamson. Il calcio italiano affonda in Europa, nel Milan tramonta l'era Ancelotti. Bene, 19:20, 800 24 00 24. Certo che in molti hanno visto un accostamento, anche se i sistemi sono diversi, i periodi sono diversi e soprattutto, lasciatemi dire, i personaggi sono diversi nell'annuncio fatto dal presidente americano Barack Obama di tassare i ricchi, una mossa alla Robin Hood certamente molto popolare, con conseguenze sull'economia naturalmente tutte da vedere. C'è un grande piano, il più grande dal dopoguerra in poi, di finanziamento pubblico, la sanità, le infrastrutture, eccetera eccetera. Ripeto, tra questa mossa di Obama di tassare i ricchi per frenare la crisi o per fare gli investimenti, anzi per fare gli investimenti, e ricordate i manifesti che causarono anche una perdita di consenso, non c'è dubbio, nel governo Prodi, che furono affissi dall'estrema sinistra italiana: anche i ricchi piangono. Insomma, la questione delle tasse sicuramente fu un elemento che portò poi alla vittoria elettorale di Berlusconi, soprattutto quella famosa frase di Padoa-Schioppa: le tasse sono bellissime, le ricordate? Innanzitutto dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima, è un modo civilissimo di contribuire insieme al pagamento di beni indispensabili come la sicurezza, come la tutela dell'ambiente, l'insegnamento, la salute, le stesse pensioni in parte. Era Padoa-Schioppa, le tasse sono bellissime, precedentemente c'era stato anche i ricchi piangono, adesso Obama: bisogna tassare i ricchi, con un cambiamento di 360 gradi rispetto alla politica americana negli ultimi 20 anni, non solo di Reagan e suoi eredi, ma anche di Clinton. 800 24 00 24. Berlusconi e le donne dopo la gaffe con Sarkozy, una storia, una never ending story si potrebbe dire, una storia infinita che ha portato addirittura adesso a una denuncia assolutamente fuori luogo, secondo me, da parte di alcune deputate del Partito Democratico alla Corte Europea, perché Berlusconi avrebbe offeso a più riprese la dignità delle donne. Purtroppo in questa stagione della mia vita, invece di fare la corte alle belle donne, sto facendo la corte a dei brutti senatori. Io direi di iniziare subito con le domande. Se sono belle ragazze, si prega di corredare la domanda del numero di telefono. State tranquilli che un cuore pronto, anche lo dico alle belle signore, non si sa mai, sono pronto a prendere il numero di telefono, anche pronto ad innamorarsi. Alla fine esco e c'è con me il senatore Comincioli, mio compagno di banco e di scuola in 8 anni di Salesiani. Come tutti gli italiani in gita, decidiamo, restando al bar e io avendo una fila di belle ragazze che mi chiedevano l'autografo, e chi se ne andava. A little weak when you hope and need to speak. Are you smile? Stay a little time, stay. Se non me ne siete accorti, era Berlusconi che cantava. 19:23, 800 24 00 24. A proposito dei personaggi che circolavano intorno a Berlusconi, che magari circolano ancora, non lo so, non mi interessa, attrici, attricette eccetera, al centro del famoso scandalo finto in cui fu coinvolto Berlusconi insieme a Sacca, questa mattina parliamo con l'elefante, è intervenuta una di queste, Evelina Manna. Una prestazione, una performance questa mattina straordinaria, direi. E lo dico naturalmente non nel senso che approvo quello che dice, in realtà non c'è né da approvare né da disapprovare, ma sentiamola attaccare a un certo punto i giornalisti, in particolare per come è stata trattata, in particolare Travaglio, sentite. Beh, comunque guardi, contro di me, non so, adesso le altre non le conosco, c'è stato proprio un accanimento, e soprattutto da alcuni giornalisti, anzi mi ha sorpreso la posizione delle donne, che in questo caso non dico che sono state solidarie, ma comunque si sono mantenute su un terreno neutro. I giornalisti, alcuni proprio, non lo so, anche Marco Travaglio, ma che vuole da me? Si è accanito in alcune trasmissioni, Evelina Manna sopra, ma che gli piaccio? Io lo inviterei a prendere un caffè invece di dirmi come una demente o come la sexy idiota, così. Poi un concetto anni 80 ancora, non ho capito, e venga a farsi due chiacchiere con me. Travaglio è un uomo di destra, lo deve perdonare, insomma c'ha quella visione un po' marxista, molto di destra, infatti è molto a sinistra. Sono ideologie del secolo scorso. Vabbè. Evelina Manna invita Travaglio, forse gli piaccio, dice, a prendere un caffè, insomma più o meno era questa. Evelina Manna e Marco Travaglio, va bene. Nella stessa trasmissione Agostino Sacca, che è uscito fuori da questo pasticcio delle intercettazioni, ne è uscito fuori a testa non alta, altissima, parla di raccomandazioni, ma insomma non stupiamoci troppo, le raccomandazioni esistono, le segnalazioni esistono ed esisteranno sempre. Poi naturalmente bisogna vedere chi gestisce queste raccomandazioni, chi fa entrare le persone in un certo posto, come, ci vuole qualcosa di neutrale secondo Sacca, sentiamo. Io ho ricevuto segnalazioni come tutti, in tutto il mondo, non solo in Italia, perché chi conosce il mondo, come bel mondo, sa che la raccomandazione, la segnalazione è un sistema per farsi avanti nella vita. Il problema è se poi ci sono dei meccanismi neutrali di selezione. Io ho messo in piedi dei meccanismi neutrali di selezione, contrariamente ai miei predecessori, cioè dei collettivi che giudicavano i provini, per cui ho potuto dire anche al Presidente del Consiglio, anche ad un sacco di altri personaggi importanti, che è inutile dire, sono usciti sui giornali, ma tutti, non ha maggioranza, senso, opposizione, ma chi che è che non era possibile su, prenderli, diciamo, che non era possibile prenderli. Questo Sacca, elogio per modo di dire della raccomandazione, della segnalazione che avviene sempre, sempre avverrà, poi bisogna vedere naturalmente come vengono gestite queste raccomandazioni e queste segnalazioni. A proposito dell'affare Mentana, vi abbiamo detto prima dell'intervento ad Anno Zero di Mentana, che dice che Mediaset ormai si è allineata definitivamente ai voleri di Berlusconi, più o meno, adesso magari esagero nell'interpretare le parole di Mentana, abbiamo ripescato una cosa da Striscia la Notizia del 1998. Almeno sembra del 98, anche se non c'erano le elezioni nel 98, una intervista di un fuori onda di un'intervista di Mentana a Berlusconi. Sentite, è abbastanza curioso. Silvio Berlusconi, seconda campagna elettorale 2 anni dopo. Forza Italia con quali idee e quali prospettive si presenta? Non siamo partiti, evidentemente. Sì. No, credevo che fosse ancora una prova. Scusa. Allora, no, dovete dirmelo. Ecco, invece che con quali idee, con quali prospettive, va bene, con quali idee, con quali... Io vorrei parlarle, se possibile, inizialmente di quali principi, come si presenta Forza Italia, senza le idee e le prospettive. Va bene. Va bene, avete capito tutti. E dove andiamo a sentire gli scioperi, perché insomma di cosa stiamo parlando? Tutta questa riforma dovrà passare per il Parlamento, forse entrerà in vigore nel 2010, autunno 2010, così dice Valducci, sottosegretario, sentite, incredibili tempi dell'Italia. Questo è un disegno di legge governativa, come è stato ricordato. Questo vuol dire che l'azione di questa legge avrà efficacia, se tutto va bene, nell'autunno del 2010. Perché? Perché essendo un disegno di legge ha tutto l'iter parlamentare, con la possibilità che la legge passi da un ramo all'altro del Parlamento, e come minimo, nella migliore delle ipotesi, parliamo di un percorso che dura dai 6 ai 12 mesi. Valducci, sottosegretario, Mario Valducci. E dunque questi sono i tempi dell'Italia. E Sergio Rizzo, sconfortato, giornalista del Corriere della Sera, nella stessa trasmissione, credo fosse Omnibus. Mi ha, diciamo, sorpreso quello che diceva Valducci, cioè che ci vogliono 2 anni. Per 2 anni ancora ci sarà questo sistema. Quanti ne sono stati fatti? 4.200 in quanto due tempo? Anni. Sì, 4 quindi in ci dobbiamo anni, aspettare 4 altri 4.200. No. E questo mi fa venire in mente una cosa, cioè che questo è un paese nel quale non si cambia mai niente in realtà, no? Perché poi voglio vedere che cosa succede in questi 2 anni. Il tempo che a Italia diventa Air France, poi. No? Posso immaginare che cosa può accadere in questi 2 anni tra il Parlamento, poi i decreti legislativi, poi si farà una proroga. Sacca, testa altissima, ma non si vergogna, mi dice Marco. Ma sono i fatti, non è questione di vergognarsi o meno. Sacca otterrà un sacco di soldi, i nostri soldi, da questa vicenda, per il suo allontanamento della RAI e poi per tutto quello che è venuto fuori di assolutamente inesistente nell'inchiesta a suo carico. Un altro ascoltatore, Alberto da Torino, dice: guardi, con lo slogan era anche ricchi piangano, congiuntivo esortativo e non indicativo, è un po' diverso. Beh, certo Alberto, effettivamente lo slogan era questo, anche ricchi piangano, il significato è lo stesso, insomma si esortava a far piangere i ricchi con le tasse, un po' come Obama naturalmente. Un altro, lei chi l'ha raccomandata? Sembra che io ho fatto l'elogio della raccomandazione, comunque non so, le posso fare un elenco se vuole, gentile ascoltatore, delle raccomandazioni che ho ricevuto, eccetera, eccetera. Andiamo a sentire Alberto da Genova. Alberto, carissimo, come sta? Bene, grazie, Cruciani. Complimenti come sempre. Grazie. A parte una precisazione sulle tasse, perché in Italia comunque l'aliquota marginale più alta è intorno al 50%. Ora, Obama parla di innalzare l'aliquota fino a un massimo del 39%, quindi c'è un po' di differenza, no, dal punto di vista del, come dire, dell'impatto del prelievo. Sì, a parte il fatto che in Italia chi ha quel reddito è un'esigua minoranza, secondo i dati ufficiali, naturalmente. Quella dichiarata. Certo. C'è una piccola differenza, ma significativa, diciamo, no? Poi è vero che in America le tasse sono più basse. Volevo parlare del PD brevemente, perché mi sembra che dopo una settimana dall'insediamento di Franceschini, così io, a prescindere dalla preferenza politica che uno può avere, ma mi sembra che abbia fatto delle azioni così degne di nota, come il fatto di aver completamente rinnovato il suo, diciamo così, il direttorio del PD, no? E mi sembra, secondo lei, questo è degno di nota? Beh, come dire, forse poteva sembrare scontato, però tanto l'ha fatto, no? Sì, no, ma ha fatto, ma a parte il fatto che a livello, diciamo, di comunicazione questa cosa qua è un po' da addetti ai lavori, poi mi sembra che più o meno le persone siano le stesse, non è che cambia nulla. Ma no, poi non c'è più il governo ombra, cioè sì, è entrato Chiamparino, è entrato Errani, d'accordo, insomma non è così che si svolta, diciamo, no, è con la proposta politica. Comunque, insomma, dal punto di vista organizzativo cerca di fare qualcosa di diverso, è vero. E dal punto di vista delle dichiarazioni che ha fatto, mi sembra che si sia posto in un modo leggermente più aggressivo rispetto a Veltroni, che trovo sia positivo, non per la cosa in sé, ma perché, essendo il PD il secondo partito italiano, tutto sommato, se riesce a sfilare a Di Pietro il vessillo dell'essere l'unico partito di opposizione, probabilmente questo fa bene alla nostra democrazia. Lei dice? Poi, io dico di sì, ma senza arrivare ovviamente a estremismi, no? Beh, insomma, è partito con la Costituzione, col fatto che Berlusconi sta violando la Costituzione. Cioè, ma non lo so, non mi sembrano grandi mosse, sinceramente, però dal punto di vista elettorale potrebbero pagare, Ma sa, comunque, voglio dire, qui ogni volta che qualcuno dice qualcosa contro il Presidente del Consiglio si dice che bisogna finirla con l'anti-berlusconismo, ma se Berlusconi è il Presidente del Consiglio, chi fa opposizione si deve contrapporre al Presidente del Consiglio. Poi c'è modo di farlo, voglio dire, è chiaro che Berlusconi certe volte se le tira un po', no? Perché anche quest'ultimo episodio, che poi ovviamente finirà per essere l'ennesimo episodio di colore, e a prescindere da cosa, dal modo di interpretare il rapporto con le donne di Berlusconi, però dà di tutta una serie poi di polemiche che sono inevitabili. Voglio dire, negli altri paesi questo non succede, è un dato di fatto. Poi uno può pensarla più o meno come Berlusconi. No, ma io non so quello che Berlusconi pensa delle donne, quale sia la concezione delle donne da parte di Berlusconi. Solo l'ultimo episodio, voglio dire, solo l'ultimo episodio. Sì, ma non un mese fa ha detto che, il discorso della bronzatura, voglio dire, oggi sono le donne, ieri era un'altra cosa, ma voglio dire, se lui fa queste affermazioni, poi è ovvio che questo tira dietro una serie di conseguenze, no? Sì, ora, no, per lui sempre positive dal punto di vista elettorale, cioè le battute di Berlusconi a tutti i livelli fanno parte ormai della politica italiana da 14 anni, certo. O uno ci convive e dice Berlusconi è questo e passiamo avanti e passiamo a parlare di cose serie, oppure restiamo lì appesi alle battute di Berlusconi, a parlare dell'uomo Berlusconi, del corpo di Berlusconi, è uscito anche un libro adesso, però insomma... Non mi pare una cosa seria restare su queste cose. Noi ci giochiamo, ci possiamo giocare, però da far sentire la battuta di Berlusconi con Sarkozy, addirittura a denunciare la Corte Europea per violazione dei diritti delle donne, insomma, secondo me ce ne corre, secondo me. Secondo me, infatti, l'opposizione magari potrebbe chiedere a Berlusconi, perché, voglio dire, dopo 8 anni di amministrazione Bush, lui che l'ha definito uno dei più grandi presidenti della storia americana, l'economia americana si trova in queste condizioni. Questa sarebbe magari una domanda più seria da porre, visto che è stato il suo massimo sostenitore per 8 anni. Ecco, questo anche sulla stampa non compare mai, non, come dire, giornalisti che gli fanno domande di questo tipo. Comunque, insomma, questo era il mio pensiero. La ringrazio molto, Alberto. Arrivederci. Pesaro, Giziano. Buonasera. Buonasera. Dica pure. Niente, io volevo aver fatto la premessa su Mentana. Sì. Il discorso di Mentana è semplice, è lineare, cioè il discorso politico di parliamo di Berlusconi. Berlusconi è un uomo, voglio dire, so per chi c'è dietro lui, però chiaramente lui ha fatto la sua mossa e il portello si è lì. È chiaro che l'informazione va gestita, è un mentana che non è magari alla fin fine, ha una tradizione magari di sinistra, gli faceva comodo di Canale 5 perché gli dava una parvenza normale, no? Giù, vuoi o non vuoi, non è, non c'è solo Fede che si schiera al 100% da far vedere che totalmente vite, morti, miracoli e Berlusconi. Il mentana, diciamo, è una voce libera, però allora... le voci libere o prima o dopo bisogna levarle, però si levano piano piano in modo che passano. Ma guardi, Giuziano, io rimango convinto di una cosa, però mi scusi, può darsi che sia come dice lei. Se quella sera, così da osservatore esterno, senza conoscere né Mentana né Confalonieri né Crippa, se quella sera Mentana avesse detto, magari dentro di sé poteva pensare quello che voleva, naturalmente che era una decisione sbagliata, ma se quella sera non avesse fatto un comunicato all'ANSA in cui comunque attaccava la scelta dell'azienda in maniera pesante, non sarebbe successo nulla. Questo è il punto. Mentana sarebbe rimasto conduttore di Matrix e direttore editoriale di Mediaset. Questo così dall'esterno, senza sapere nulla. Sì. Poi magari non sarà così. Se Mentana diceva che l'azienda fa gli interessi suoi, chiaramente doveva fare un ascolto, doveva fare quello lì, tutto ha avuto successo come Mediaset, voglio dire. Sì, no? Sì, è certo. Quel che voglio dire è che il discorso di Mentana era superare prima o dopo una pressione, se non era questa era un'altra, voglio dire, cioè l'informazione purtroppo ormai per lo scopo è arrivato al punto che non gli serve più niente, non gli serve. Vabbè, Giuziano, non capisco che quando lei dice non gli serve più niente, che significa? Non gli serve più di avere una parvenza normale. A questo punto lui vuole fare piazza pulita di tutto quello che è rimasto, magari di voci dissonanti anche all'interno di Mediaset, lei dice? No, voci dissonanti, non è più importante, ma servivano per far vedere una roba regolare, adesso è regolare anche se non ci sono queste voci qua. Ho capito, guardi... Ormai io le posso dire una roba semplice, che mi rimane di stocco, una mia vicina ha votato Berlusconi nel 94 perché era un bel uomo. Questa è una persona intelligente. Guardi, Giuziano, c'è una oggi, la ringrazio di questa osservazione, a parte che è assolutamente normale votare così, c'è una ricerca dell'Università di Losanna uscita oggi, leggevo prima in qualche sito, c'era anche un servizio credo sulla RAI, molto interessante, un servizio dell'Università, una ricerca dell'Università di Losanna che dimostra come credo 7 elettori su 10 preferiscano votare candidati belli, candidati di bella presenza piuttosto che candidati che magari hanno dei contenuti, hanno delle idee, eccetera, eccetera. Non c'è nulla di particolarmente pericoloso in questo. Fa parte della politica come si è sviluppata negli ultimi anni. La ringrazio. Andiamo a sentire un ascoltatore da Roma, Francesco. Buonasera. Buonasera a lei. Dica. Io intervengo riguardo il diritto di sciopero che sta per essere modificato per alcune categorie. Sì, nel 2010, alla fine del 2010, forse, se tutte le modifiche passeranno poi in Parlamento. Con i tempi italiani, diciamo, quindi come tutto il resto andrà più o meno a rilento a seconda delle volontà e delle emergenze che verranno trovate nel frattempo, verranno magari portate avanti più o meno interessatamente dai vari partiti politici che saranno da qui al 2010, 2012 al governo. Dunque? Quello che mi crea perplessità non è tanto la tempistica, che mi interessa ma molto relativamente, quello che mi crea perplessità è la sostanza dell'argomento. Cioè lei pensa che sia un attacco ai diritti dei lavoratori, no, una minaccia per diritti costituzionali? No, perché oggi leggevo questo, sull'Unità per esempio leggevo questo. Purtroppo per me non leggo l'Unità, però... Vabbè, no, ma adesso non dice... Le devo dire che, e purtroppo ovviamente anche per chi vende l'Unità, quello che mi premeva far presente era che, ad esempio... visto che si parlava di timori e di costituzionalità, mentre la Costituzione mi sembra di ricordare che riporti comunque il diritto allo sciopero, seppur sì, da effettuarsi in base a norme e regole disciplinate dallo Stato. Ecco, appunto, no, Francesco, ma perché qui a parte che, ci siano articoli della Costituzione che tutelino la mobilità, se non in quanto libertà di movimento all'interno dello Stato. Che non è una cosa, da poco. Francesco, ricordiamo che non è un vincolo che viene imposto dall'eventuale sciopero, non è questo. No, però qui dobbiamo intenderci, Francesco, qui si sta parlando, quando mai sarà approvata questa riforma, di alcuni settori, cioè non è che tutti i lavoratori non possono scioperare con le regole che il governo propone adesso. Si tratta del settore soprattutto dei trasporti, settori naturalmente molto importanti per quello che riguarda il pubblico, gli utenti, eccetera. Ci siamo sempre lamentati per l'interminabile numero di scioperi che ci sono in un anno in Italia. Ci sono delle regole, naturalmente si possono contestare, sono eccessive, e infatti c'è il Parlamento per discutere, eccetera. Adesso sembra che siano conculcati i diritti costituzionali. Questo francamente mi sembra esagerato. A grande richiesta, devo dire, di diversi ascoltatori che ci hanno scritto delle mail nei giorni scorsi, dopo averla visto all'opera durante una trasmissione, credo con Corrado Auges, nei giorni scorsi, Bruno Tinti, eccoci qui. Buonasera, ex procuratore aggiunto a Torino, ha lasciato la magistratura l'anno scorso, nel 2008, ed è autore di un libro, La questione immorale, perché la politica vuole controllare la magistratura, che è uscito per Chiare Lettere da poco. Allora, Tinti, le faccio subito una domanda, molto chiara, molto diretta. Secondo lei, il modo in cui sono organizzate oggi, non come vuole fare il governo, le intercettazioni telefoniche, c'è da cambiare qualcosa oppure no? Assolutamente niente. Nulla. Se c'è da cambiare qualcosa sarebbe nel poterle permettere per altri reati anche puniti con pena meno grave. Addirittura estendere, lei dice? Sì, certo. Le intercettazioni sono uno strumento di indagine essenziale. Non si può nemmeno immaginare di poter fare indagini penali senza ricorrere alle intercettazioni. E secondo lei la proposta del governo, che ancora non è definitiva, si parla di autorizzazione delle intercettazioni con indizi oggettivi di colpevolezza, non capisco cosa significa, molti hanno contestato anche quest'ultima formulazione, è un attentato definitivo alla possibilità, un colpo definitivo alla possibilità di fare intercettazioni, anche quest'ultima formulazione del governo secondo lei? Le volte in cui si parla di colpevolezza e non di reato, sì, di fatto si renderà impossibile fare le intercettazioni. Vi spiego meglio: se una persona viene rapita, abbiamo sicuramente gravi indizi di reato, è stato commesso un reato di sequestro di persona, ma non avremo indizi di colpevolezza fino a che non abbiamo idea di chi è stato a rapirla. E a questo punto noi non potremo fare tutto quello che facciamo abitualmente, e cioè una persona è sparita, noi andiamo a pesca, mettiamo sotto controllo il telefono del fidanzato, della cameriera, che guarda caso il giorno dopo non si è presentata al lavoro. E perché lo facciamo? Perché quel fidanzato magari ha un precedente penale per spaccio di droga. Mettiamo sotto controllo il telefono del fratello della cameriera, cioè cerchiamo di allargare al massimo l'ascolto sperando di trovare qualche indizio che ci porti ai responsabili del sequestro. No, lei ha perfettamente ragione, secondo me su un fatto, se si introduce la questione della colpevolezza e si cambia dunque la normativa togliendola il reato, me lo diceva anche nei giorni scorsi, un po' per conoscere meglio la materia, un mio carissimo amico, compagno di classe, magistrato, che ha lavorato tanti anni anche in zone difficili su questi temi, se si sposta, appunto, se si introduce l'elemento della colpevolezza, praticamente sarà molto molto più difficile fare intercettazioni. Su questo non c'è impossibile, perché se è impossibile, non è impossibile, non lo so. Il giorno dopo, questo vuol dire che è un indizio di colpevolezza. Magari è solo malata e comunque potremmo mettere sotto controllo solo il suo di telefono, ma non quello del fidanzato. Senta Tinti, questo secondo lei è uno dei metodi con cui, seguendo la traccia del suo libro, la politica vuole controllare la magistratura, oppure un modo per rendere complicate le indagini? Perché insomma non è che si può pensare che il governo abbia l'intenzione di non combattere a sufficienza, a parte che poi sono esclusi i reati di mafia e terrorismo, come lei sa, no? di non combattere a sufficienza la criminalità, insomma. Perché allora, secondo lei, si vuole introdurre questo nuovo criterio? No, no, ma è proprio per impedire le indagini. Qui si sta facendo un baratto perverso. La maggioranza, ma non è adesso la maggioranza, ma questo è un discorso che è stato coltivato anche da altre forze politiche. Il vecchio decreto Mastella era altrettanto esiziale come quello di adesso. Sì, i centristi, diciamo. Sì, in realtà l'obiettivo è quello di impedire le indagini nei confronti dei reati tipici della classe dirigente. Le corruzioni, le frodi fiscali, i falsi in bilancio, gli insider trading, insomma tutto questo tipo di abusi di ufficio, tutti questi reati senza intercettazioni non si scoprono. Il baratto è: io a tal segno voglio essere sicuro che queste indagini non vengano più fatte, che sono disposto ad accettare che anche le indagini per la criminalità comune ne soffrano fino al punto di non essere più fatte. Però mi scusi Tinti, non c'è stata, da questo punto di vista, i numeri parlano chiaro, negli anni scorsi, rispetto anche al modo in cui poi si sono svolti i processi e al modo in cui i processi si sono conclusi, una esagerazione, non sto parlando della stampa, poi adesso affrontiamo la questione della stampa e della pubblicazione che è una cosa diversa, una esagerazione nella richiesta di intercettazioni, nel loro utilizzo, nella famosa pesca a strascico, eccetera eccetera, non c'è stata un'esagerazione da parte dei magistrati italiani? È vero anche che siamo un paese in cui è altissimo il tasso di criminalità in alcune zone, per carità, non c'è stata un'esagerazione secondo lei? Assolutamente no, io non conosco casi di esagerazione, come dire, casi identificati, nome e cognomi, numero di registro generale del fascicolo, ma anche da un punto di vista logico, come si fa ad esagerare nelle intercettazioni? Come si può pensare che un pubblico ministero, un GIP o la polizia che gliele chieda delle intercettazioni lì dove non sono utili? Ma avremmo mica voglia di andare a fare i guardoni telefonici? Beh, ossia, qualcuno la tentazione la può avere, Tinti, naturalmente, viste come sono state condotte alcune indagini, naturalmente parlo di indagini, per esempio quelle sull'ex re d'Italia, insomma, sull'erede al trono. Ah, ho capito, Vallettopoli, insomma. Scusi, se c'è un'ipotesi di reato, sì, di corruzione o di concussione, che autorizzano le intercettazioni... Sì. No, ma io non voglio dire che non voglio dire che sia stato commesso qualcosa di illegale. Il problema è questo: che c'era un metodo che era quello del rinnovo praticamente automatico 15 giorni dopo 15 giorni. Alcuni magistrati scrupolosi, naturalmente, dopo 15 giorni, dopo un mese, magari controllavano e negavano il proseguio delle intercettazioni, altri invece, insomma, no, si poteva intercettare anche per un anno di seguito. Lei potrà dire non è un problema. È normale che sia così. Lei pensi che in tutta la mia vita io non ho mai avuto un diniego di proroga. Ma perché? Perché il pubblico ministero chiede la proroga se è necessaria, altrimenti non la chiede. No, ma questo è chiaro dal punto di vista formale, è chiaro. Ma sostanziale. No, proprio. Anche sostanziale, però Tinti, un sistema che permette delle proroghe infinite è un sistema che può portare a qualcosa di perverso oppure no? Ma intanto la proroga non è infinita. Perché può esserlo, naturalmente. No, può durare quanto può durare l'indagine preliminare. No, vabbè, certo, infinita intendo che dopo 15 giorni si può rinnovare di 15 giorni in 15 giorni senza un termine. Ma d'altra parte, se io sto indagando su uno spaccio di droga, torniamo al sequestro di persona, io posso anche aver identificato i sequestratori, ma a me serve liberare l'ostaggio. Sì. È ovvio che prorogherò fino a quando non avrò acquisito gli elementi necessari per sapere dove è tenuto in ostaggio. Dunque, anche adesso, se al 59esimo giorno, perché 60 sono previsti, scopro qualcosa, mi trovo in una situazione complicata. Lei pensi che cosa potrebbe passare nella mente del magistrato e dei familiari dell'ostaggio sentirsi dire al 59esimo giorno: ci vediamo dopodomani nel solito posto? Io potrei identificare il solito posto seguendo col GPS il cellulare che conosco, ma questo avverrà il 61esimo giorno e io non potrò farlo. Ma guardi che è una follia. No, no, ma anche secondo me il limite dei 60 giorni non dico una follia, ma insomma potrebbe essere cambiato. In casi eccezionali si deve poter proseguire. Senta Tinti, le faccio ascoltare a proposito dell'informazione, perché è molto interessante. Poi lei mi promette che sui singoli temi ci possiamo tornare altre volte, durante la trasmissione la richiamerò. Quello che ha detto questa mattina, parliamo con l'elefante Agostino Sacca sul circuito perverso tra informazione e magistratura. Sentite. La scorrettezza è che queste carte sono state passate a un giornale, a un giornalista di un quotidiano molto importante, prima che ce l'avessero le parti, il giorno a prima. A Repubblica? A Repubblica, a D'Avanzo. Giuseppe D'Avanzo, cronista sì, di Repubblica. Che è uscito. Boh. Ma lei si vuole rivalere? Io ho fatto una denuncia, ho fatto una denuncia alla Procura di Roma contro questo abuso. È la Procura di Roma che mi pare giudica i comportamenti dei giudici di Napoli, e la Procura di Roma, che ha lavorato molto seriamente, ha concluso che sì, è vero, quelle carte erano uscite dalla Procura di Napoli. Allora c'è, e credo che sia una delle primissime volte, viene fotografato il circuito mediatico, giustizia, giornale, mediatico-giustizia. Fotografato nel momento in cui avviene. Questa è una cosa orribile. Allora Tinti, qualcosa deve aver funzionato male in quella occasione, naturalmente. Lascio perdere l'inchiesta e la sostanza di quell'inchiesta, però, e lascio perdere anche la questione del carcere, che non mi pare che il governo voglia proseguire su questa strada per i giornalisti. E la disposizione che prevede praticamente di non poter parlare di un procedimento fino all'inizio del dibattimento, le pare una cosa perversa oppure una cosa che invece impedisce il gossip giudiziario? Questa disposizione riguarda solamente i magistrati, naturalmente. A me pare una cosa sensata, teoricamente. Il problema qual è? È lo stesso che emerge da queste dichiarazioni che ha fatto Sacca, che mi paiono molto discutibili. Cioè, salterebbe fuori ogni volta che l'avanzo della situazione ha una qualche informazione che gliela ha data il magistrato. Sacca dice, si sa che sono uscite dalla Procura di Napoli, forse lo sa lui, ma credo che non lo sappia nessun altro. Voglio dire, nessuno sa che ha dato ad avanzo questa... No, d'accordo, ma secondo lei c'è da fare qualcosa per quello che riguarda l'informazione oppure no? Guardi, sa perché no? Non perché l'informazione non commetta degli abusi, ma perché l'abuso è il prezzo da pagare per un'informazione democratica. Voglio dire, il codice penale prevede la sanzione dell'abuso, sì, c'è la diffamazione, sì, e quindi si può essere condannati anche a pagare grosse somme di denaro. Ma se noi volessimo garantirci, perché è chiaro che l'obiezione è, sì, vabbè, però quando l'abuso è stato commesso ormai il danno è stato fatto. Ah, certo. Certo, ma se noi vogliamo garantirci che nessun danno possa essere mai fatto, nello stesso momento ci garantiamo di non avere un'informazione. E con questo ragionamento complicato ma nello stesso tempo molto affascinante, Tinti, io la saluto e le strappo una promessa di altre presenze qui per spiegare altri passaggi di questa legge. Grazie. Abbiamo i titoli del TG5. Obama annuncia fine delle operazioni in Iraq entro agosto 2010, dialogo con Siria e Iran. Frattini incontra Washington e Hillary Clinton, entro marzo missione italiana a Teheran. Via libera del governo alle nuove norme sugli scioperi nei trasporti, più tutele per gli utenti, freno ai microsindacati, sì di CISL e UIL, contraria alla CGIL, Sacconi, critiche pregiudiziali. Suicida dopo una violenta lite con la compagna il gioielliere che 6 anni fa a Roma uccise 2 rapinatori. L'accusa per lui era cambiata in omicidio volontario. Abusava di una bimba di 11 anni, arrestato a Napoli un 55enne. Il pedofilo arrestato 2 giorni fa aveva già abusato della nipotina, ma era in libertà. Alfano chiede gli atti. Un congegno elettronico per svuotare le macchinette cambia monete dei bar e dei supermercati. L'ultima truffa della malavita cinese scoperta in Emilia. Tacchi altissimi e pantaloni attillati, donne con grinta e seduzione sulle passerelle di Milano. Bene, TG1 subito. PIL americano a meno 6,2%, male le borse europee, a febbraio produzione industriale in calo. Il governo vara nuove regole per gli scioperi nei trasporti, in studio il ministro Sacconi, l'opposizione no alla delega, critico Epifani. Schifani sul testamento biologico, più tempo per una legge condivisa. Beppino Englaro e lo staff medico indagati per omicidio volontario. Obama annuncia il piano per il ritiro dall'Iraq, via le truppe entro agosto 2010. Frattini a Washington incontra Hillary Clinton. Uccise due rapinatori, rischiava una pesante condanna, suicida un gioielliere a Roma dopo una lite furiosa con la convivente. Matrimonio da favole in California, Giselle, la modella più pagata al mondo, sposa una star del football, griffati anche i vestiti dei cani. Eccoci qui alle 24 minuti, prima dei titoli della 7, ma più o meno questa sera la musica è la stessa. Andiamo a sentire ancora Francesco da Roma, naturalmente, che era in attesa di concludere il suo intervento, prego. Buonasera di nuovo. Dunque, dicevamo riguardo il diritto di sciopero, il problema non è la quantità di persone a cui questa norma è riferita. Il problema è la norma stessa, in quanto comunque potrebbe avere delle influenze su quello che è il comportamento non solo dei lavoratori in quanto tali, perché potrebbero fruire o meno di un diritto più o meno sancito costituzionalmente, quanto perché questo comunque potrebbe portare il management di una delle aziende interessate, quindi parliamo essenzialmente di aziende di trasporti che operano in regime di monopolio quasi, sia esso trasporto aereo, terrestre, navale, ferroviario, in maniera diciamo così più libera, in maniera diciamo così meno suscettibile di critiche che possano andare all'esterno dell'azienda, perché essenzialmente lo sciopero questo ha come funzione quello di portare all'esterno della realtà aziendale le problematiche che sono più pesanti, perché mentre le problematiche aziendali possono essere risolte semplicemente con una trattativa più o meno lunga, quelle più pesanti, quelle più difficili da risolvere spesso possono essere portate al di fuori per avere una maggiore un maggiore coinvolgimento non solo dell'opinione pubblica ma anche dei politici stessi, che sono sensibili alle problematiche che questi scioperi creano. Sì, Francesco, io credo che non, però qui non siamo in presenza di una impossibilità di fare sciopero, si tratta semplicemente di regole più rigide in un settore particolare che è quello dei trasporti. Non mi pare una cosa che limiti i diritti dei lavoratori, questa è la mia impressione. Poi certamente le sue osservazioni sono assolutamente puntuali e da considerare. Andiamo a Pordenone. Gianni mi sente? Sono Eccoci. Gianni di Pordenone, la ringrazio dell'intervento, cercherò di essere breve, intervengo sulla questione Mentana e Sacca. Sì. Mentana in particolare, perché per me non c'è nessuna novità su quelle dichiarazioni che ha fatto, anzi mi meraviglio che abbia resistito tutti questi anni senza andarsene prima, visto che c'era questa situazione di costrizione, o meglio di seguire questa linea. Evidentemente non c'era questa costrizione, però questa è la mia osservazione. Ma, secondo lui si è acuita soprattutto nell'ultimo periodo, comunque è una cosa sempre grave. Grave per due motivi: primo, perché l'informazione è imbavagliata, e questo si può vedere perché i programmi Mediaset, programmi interessanti, programmi di informazione non li fa, o li fa nella fascia avanzata. Che poi questo sistema è stato è stata contaminata con questo sistema anche la TV, la RAI, perché se si guarda un telegiornale, per esempio, 10 minuti vengono dedicati all'informazione o alla politica, 20 minuti alla cronaca, agli stupri, tutte queste cose qua, che apro una parentesi, vorrei verificare nel tempo se gli stupri e tutti questi fenomeni di violenza sono aumentati, oppure riferendosi a un arco di temporale di 50 anni che quale curva hanno subito, no? E poi la cosa che proprio mi fa ancora più arrabbiare di tutto è la cosa Sacca, secondo me, scusi, ma dichiarato innocente, no? Ma viene dichiarata anche un sistema secondo me viene legalizzato l'illegale, cioè il sistema all'italiana della passaparola, della raccomandazione. Scusi Gianni, ma proprio non interessa a nessuno il fatto che ci sia stata l'archiviazione, anche se poi i magistrati hanno detto che c'è il costume, ma perché poi i magistrati naturalmente alcune volte, non, siccome la cosa è archiviata, però devono sempre aggiungere qualcosa, ma proprio non interessa a nessuno che le inchieste siano state archiviate, che quelle intercettazioni pubblicate andavano distrutte. A lei non interessa questo aspetto, lei guarda all'interno di quelle intercettazioni, non gliene frega niente se andavano distrutte, non andavano distrutte, se hanno rovinato la vita delle persone, non gli importa niente. niente se c'è stata l'archiviazione o non c'è stata l'archiviazione, lei guarda al fatto, diciamo, al fatto, cioè a quello che è uscito fuori, guarda al fatto. In particolare il fatto. Benissimo, ma questa qua è la perversione, ha capito? Questa è la perversione di quello che è accaduto, il fatto che lei si concentri su quella roba là, cioè sulle conversazioni che non dovevano uscire e non dovevano essere pubblicate perché andavano distrutte. Lei si sofferma su quello e dice che c'è il malcostume in Italia, le raccomandazioni, le attricette, le cose, come se non lo sapessimo, come se fosse una cosa che è così, cioè nuova. Sì, però ogni volta che nascono degli scandali legati al malcostume, legati alla raccomandazione, eccetera, nascono. Ma se pensiamo, Mani Pulite è nato su questo argomento, sono nati dei partiti condannando la corruzione, condannando un certo sistema. Ma guardi Gianni, questi sono quelli chiaramente che ammettono tutto ciò in pratica. Perché non ho capito quest'ultima parte del suo intervento, la ringrazio Gianni, alle 20:10 non ho capito il collegamento con Mani Pulite. Ripeto, a nessuno importa, a meno di quelle persone che intervengono, pare importare il fatto che ci sia stata un'archiviazione e quelle cose andavano distrutte. Questi sono fatti, non quegli altri. 20:10, andiamo a Lodi, provincia di Lodi. Fulvio, buonasera. Sì, buonasera Cruciani. Dica. Ecco, io sono un ferrotramviere, mi spiego, pista di autobus di servizi pubblici. Sì. Quindi penso di essere coinvolto in questa faccenda. Il mio intervento sarà il campo visuale, l'avrete già capito. Mi sembra incredibile, tra l'altro da Fini, che io ritengo una persona assolutamente ragionevole, un politico garbato, insomma. Cosa le sembra incredibile? Che cosa, mi scusi? No, non riesco a trovare un solo aspetto ragionevole in tutta questa faccenda. Cioè, è chiaro che si traccia. Guardi, la sento malissimo, dobbiamo richiamarla, so che lei è in attesa da tempo, ma la comunicazione lascia a desiderare. Allora andiamo a Parma da Antonio, eccoci. Pronto? Buonasera. Buonasera. Dica. Dunque, sono Antonio, chiamo dalla provincia di Parma e faccio l'allevatore di vacche da latte. Volevo rendere noto ai telespettatori l'indignazione della mia categoria di 45.000 allevatori contro il ministro Zaia, ministro dell'agricoltura, che ha emanato un decreto che premia sostanzialmente chi nel tempo si è comportato in maniera illegale rispetto all'annoso problema delle quote latte, prendendo in giro e sbeffeggiando tutti coloro che come me invece hanno rispettato la legge, acquistato quota, investito in questa cosa le proprie aziende e adesso invece si ritrovano presi in giro dal decreto fatto dal ministro che premia solo e soltanto coloro che hanno scelto di stare nell'illegalità, come del resto lui ha dichiarato pubblicamente. Guardi, devo informarmi meglio di queste questioni perché le confesso praticamente sinceramente che ne so ben poco. Non voglio entrare nei tecnicismi della materia perché credo che poco interessante. Lei dice che il decreto del governo sulle quote latte premia chi finora è stato nell'illegalità, chi non ha rispettato la legge. Esattamente, fatto anacronistico che poi venga da un ministro della Lega, che è il partito che si sa voglia far rispettare, fa della legalità la sua bandiera. No, poi soprattutto Zaia ha sempre detto di voler difendere gli agricoltori, italiani, produttori di latte, eccetera, eccetera. Adesso non lo so, ripeto, seguendo il suo ragionamento, però mi informo meglio e nei prossimi giorni, se la vicenda esce a una certa rilevanza, ne parleremo naturalmente, Antonio. Conserviamo i suoi riferimenti. Ci vuole aggiungere qualcos'altro? Quindi, probabilmente andiamo e muoviamo, perché ci sono presidi in tutta Italia con i trattori ai caselli dell'autostrada e tutti questi trattori, questi presidi si muoveranno lunedì, quando inizia la discussione in Parlamento del decreto, verso Arcore per manifestare il dissenso di tutta la categoria. Anche voi verso Arcore, insomma. Per forza, cosa vuoi mai? In Italia, guarda, immagini lo sconforto mio e di tutti gli altri, che siamo tutte persone che sono sempre state nella legalità, che per protestare contro il fatto che chi è stato nell'illegalità viene punito, deve mettersi in piazza, che è una cosa. No, mi fa ridere questa cosa, ridere, per carità, non voglio fare ironie sulla situazione degli agricoltori e dei produttori di latte, mi faceva ridere il fatto che ci fosse sempre Arcore al centro di tutto. Quando si vogliono fare le centrali nucleari, chi protesta dice mettiamola ad Arcore, voi volete andare col trattore verso Arcore, insomma Arcore è il centro di tutto. D'altra parte, dice lei, è lì che si decide, no Antonio? Ma anche rispetto al latte Roma è un po' più lontana, no? Cosa dice lei? No, dico, d'altra parte lei dice è là che si decide tutto, non è che decide Zaia. Insomma, l'impressione è questa, oppure è là che si lascia decidere. Poi una parte degli allevatori andranno anche a Gemogno, a casa di Bossi, perché la Lega in queste cose ha delle grandissime responsabilità, soprattutto ha degli interessi propri, perché lei immagini che una delle persone che beneficia di più di questo decreto è l'onorevole Ranieri, che è segretario della Commissione Agricoltura alla Camera per la Lega Nord. In che senso le beneficia, mi scusi? Ne beneficia perché è uno storico leader di coloro che non hanno rispettato la legge, che si sono schierati a loro tempo coi trattori lungo le autostrade, che hanno buttato liquame bloccando il traffico, eccetera, eccetera, eccetera. Guardi che mi dicono adesso che il leghista che lei prima ha citato sarà ospite lunedì di una nostra trasmissione del mattino, 24 mattino, condotta da Alessandro Milan, proprio su questo tema, insomma alle 8.35, dunque la invito a seguire naturalmente, dunque siamo attenti e monitoriamo anche la vostra situazione. Antonio, teniamoci in contatto, io mi informo meglio perché francamente di quote latte ne so poco, lo ammetto francamente. La ringrazio molto Antonio, buona serata. Italiani, che il ministro può permettersi di dire quello che vuole, vede, questo è il problema. La ringrazio, buona serata. Prego. 20 e 17 traffico. Che cosa distingue una grande idea? La capacità di evolversi. Da un'idea potente e versatile come Porsche Cayenne è nata Cayenne Diesel, motore turbodiesel V6 da 3 litri, alte prestazioni, bassi consumi, emissioni ridotte, ma soprattutto spirito Porsche. Nuova Cayenne Diesel. Venite a provarla dal 26 febbraio al 7 marzo in tutti i centri Porsche. Maggiori informazioni su www.porsche.it. Strade in diretta. Ancora trafficate le principali aree urbane, specie quella romana, sulla tangenziale est, e ancora possibili disagi in direzione stadio per un incidente che era avvenuto nelle ore passate all'altezza di via dei Campi Sportivi. Poi sulla Roma-Fiumicino ci sono code verso Fiumicino, tra via della Magliana e l'innesto con il raccordo anulare, su quest'ultimo altre code in direzione interna fra Ardeatina e Pontina, in direzione esterna fra Pontina e Tuscolana. Lungo la 22 del Brennero invece faticano a smaltirsi le code, sono all'interno di un cantiere da Bolzano Nord a Chiusa a Val Gardena in direzione Brennero, ancora circa 4 chilometri. E poi un chilometro di coda anche in questo caso per i lavori sulla Firenze-Pisa-Livorno da Montopoli-Valdarno a Ponte d'Arest in direzione Livorno. Non ci sono altre segnalazioni per questo appuntamento, il prossimo torna con voi fra mezz'ora. La Zanzara. Eccoci qui alle 20.19, 800 24 00 24. Abbiamo appreso adesso delle proteste dei produttori di latte, almeno di una parte dei produttori di latte, contro le decisioni del governo, addirittura minacce di marciare su Arcole con i trattori. Allora, 800 24 00 24, ripeto il numero per i vostri interventi fino alle 20.45 per commentare con noi tutti i fatti del giorno. E andiamo con Michele Brambilla. Ciao Michele. Ciao. Vice direttore del giornale, autore di un libro appena uscito, Coraggio, il meglio è passato. Credo che non si riferisca alla crisi economica che è ancora in corso. Viaggio nel nuovo conformismo italiano. Quali sono i nuovi conformismi italiani, Brambilla? Ma sono il rovesciamento dei vecchi conformismi. Io ho cercato di descrivere la vita quotidiana della gente comune, in famiglia, nelle vacanze, nel lavoro, nello sport, nel tempo libero, e di mettere a confronto i nostri vizi e i nostri tic di oggi con quelli di 20-30 anni fa. Adesso crediamo di esserci liberati da tanti tabù, ma forse ne abbiamo creati di nuovi, e io cerco di metterli un po' alla berlina, con un po' di ironia. Incongruenze, ipocrisie, i nuovi conformismi. Dimmene uno, per esempio ho letto un capitolo che ha come titolo Povero Cocco, che è la tendenza che non c'era una volta, il conformismo di adesso, a proteggere sempre i nostri figli, qualsiasi cosa facciano. Sì, noi qua chiamo in causa la mia generazione, io ho 50 anni e ho 5 figli, quindi sono colpevole anch'io. Noi abbiamo forse protetto troppo i nostri figli, non dico come il papà di Giovanna di Pupi Avati, ma insomma, quando prendevamo un 4 a scuola noi ci arrivavano due sberle, oggi andiamo dai professori a protestare. Quando eravamo bocciati sparivano bicicletta, vacanze, eccetera, adesso si fa un ricorso al TAR. Credo che questa iperprotettività abbia danneggiato i nostri figli e lo vedo anche in un altro ambito di cui parlo nel libro che mi colpisce da vicino, che è quello spettacolo terrificante che è diventato il calcio giovanile. Anch'io ho giocato a calcio da ragazzo e i miei genitori non erano mai venuti a vedermi. Adesso vedo i miei bambini che giocano e ci sono genitori che si azzuffano, insultano l'arbitro, l'allenatore. Insomma, sono veramente spettacoli indecenti e diseducativi. Ecco, naturalmente tutto questo non è che può portare a dire che si stava meglio quando si stava peggio. La nostra società ha fatto un sacco di progressi, naturalmente. Magari oggi i giovani hanno, se si vuole restare a parlare di giovani, hanno un sacco di opportunità. Tutti abbiamo maggiori opportunità, no? Certamente, infatti io chiudo il libro con un capitolo autoironico che si intitola Non c'è più la nostalgia di una volta, per prendere in giro quelli che pensano che il passato sia sempre meglio del presente, perché anche quello è un estremismo. Ho voluto un po' autodenunciarmi per non prendermi troppo sul serio. Il mondo ha fatto infiniti passi in avanti, io cerco soltanto di così mettere in guardia da alcune esagerazioni. Insomma, una volta c'era una diffidenza eccessiva, che in parte c'è ancora adesso in certi settori, verso lo straniero, verso il diverso. Adesso siamo arrivati all'assurdo di abolire la festa di Natale in una scuola, in un asilo, per non offendere magari un bambino che è di un'altra religione. Insomma, così come una volta c'era un'odiosa discriminazione che mi ha sempre fatto orrore verso gli omosessuali, adesso siamo arrivati in Inghilterra a vietare nelle scuole l'uso di parole come mamma e papà, perché potrebbero offendere quei bambini che hanno due mamme e due papà invece di una mamma e papà. Insomma, sono le esagerazioni. Quando si è voluto correggere un'ipocrisia con in modo eccessivo, si è creata un'altra ipocrisia. Anche per quello che riguarda un altro capitolo che ho letto in questi giorni, ha come titolo i ciberschiavi, no? Sì. Ed è sempre riferito ai nostri figli, ai figli, insomma, ai ragazzi di oggi, no? Quello, diciamo, potrebbe essere interpretato un po' come si stava meglio quando si stava peggio, nel senso ci sono grandi opportunità che vengono naturalmente da internet eccetera, ma anche dipendenze. Un pochino sì, anche qua bisogna essere realisti. Io vedo che i miei figli più piccoli, non so, il mio quarto figlio che ha 8 anni, se gli dai in mano un computer non ha bisogno di spiegazioni, è come se ci fosse stata una mutazione genetica, questi sanno già come si usa il nuovo modello di telefonino o il nuovo computer, e questo è sicuramente un fatto positivo, perché queste tecnologie danno delle possibilità straordinarie. Sì. Però quando poi vedo i bambini che stanno attaccati ore non solo davanti alla televisione ma davanti al computer o davanti al Game Boy, adesso si chiama in altro modo, non mi ricordo, ma effettivamente mi viene da rimpiangere i pomeriggi passati all'aria aperta dietro un pallone in bicicletta. Quindi insomma, ci sono in tutte le cose di una società che si muove fatti positivi ed altri, e nuovi conformismi, appunto. Sì. Voglio chiederti una cosa, tu che hai una famiglia così numerosa, e faccio riferimento qui all'attualità, al di là di questo libro pubblicato da Mondadori che ha come titolo Coraggio, il meglio è passato. A me ha molto colpito, come a tutti credo, la vicenda di quel marocchino che ha distrutto la sua famiglia, ha sgozzato la moglie e il figlio di 2 anni. Si è parlato anche oggi sul tuo giornale della questione dei matrimoni misti. È davvero un'emergenza oppure sono cose che naturalmente possono accadere anche in famiglie che non hanno, in cui non c'è una differenza culturale, religiosa così profonda come invece si è avvertita in questo caso? Guarda, hai toccato un tema che mi colpisce profondamente, che insomma hai toccato un nervo scoperto, perché è vero che i matrimoni misti sono spesso rischiosi perché si mescolano delle culture spesso difficilmente conciliabili, però è sicuramente vero anche, e ne parlo nel libro, che situazioni come quella di San Donato Milanese accadono anche tra famiglie di italiani, cioè anche qua si tratta del rovesciamento di un'ipocrisia in un'altra ipocrisia. Una volta l'ipocrisia era quella di far finta che i genitori andassero sempre d'accordo, si c'erano i separati in casa, bisognava far finta che la famiglia fosse unita. la famiglia invece spesso è un luogo di divisioni e di lacerazioni. Adesso l'opposto di quella vecchia ipocrisia è una nuova ipocrisia che vuol far credere che lo sfasciare una famiglia, il lasciare i figli senza due genitori di riferimento e così via, sia una cosa indolore. In realtà io nel libro parlo di un papà che si diede fuoco in televisione al TG2 e fu considerato un pazzo, e io scrivo che quest'uomo sicuramente non ha fatto una cosa condivisibile, ma quest'uomo era, mi pare, 13 anni che non riusciva a vedere suo figlio, e un padre che per 13 anni non vede suo figlio ha diritto di perdere la testa. Questi erano degli italiani, non c'entra niente il multiculturalismo, sì. Quindi anche qua c'è un'emergenza sociale di cui dobbiamo prendere atto. Adesso c'è questo mito della famiglia allargata, il medico in famiglia, i Cesaroni e così via, si vuole far credere che si sia così contenti quando a casa arriva il nuovo fidanzato di mamma. No, i figli soffrono. Lo so che è sconveniente dirlo e che si passa da reazionari, bisogna tener conto delle situazioni di tutti, delle necessità a volte di separarsi, per carità, io non voglio giudicare nessuno, certo. Però si è molto banalizzato questo dramma di tanti genitori che non, fino a trasformarlo, non forse, vedono più bambini, e di bambini che non vedono più genitori, fino a trasformarlo forse in un nuovo conformismo, sì. grazie a Michele Brambilla di essere stato con noi. 20 e 27 provincia di Lodi, Fulvio, eccoci qui, abbiamo recuperato l'autoferrotramiere, sì, di bene. Prima, e credo che lei abbia qualcosa da dire sul diritto di sciopero, sulla nuova legge sugli scioperi. Le pare una forzatura, le pare qualcosa di eccessivo, vede mancare sotto i suoi piedi i diritti fondamentali, mi dica. No, non speriamo, però la carta di uno sciopero è data dal disagio, lo sappiamo tutti purtroppo, entesi, che ci dà anche un'esposizione multimediale, quindi l'apertura dei telegiornali piuttosto che la prima pagina dei giornali, e questo meccanismo mette in moto anche poi le contrattazioni collettive, eccetera. Ma tutto questo resterà naturalmente, Fulvio, non è che scomparirà? Ma io non lo so, non ne sono così sicuro, anche perché ecco, l'ultima cosa che volevo precisare, che a noi sembra, a me sembra la cosa più chiara ed elementare del mondo, cioè se i contratti nazionali di categoria venissero rinnovati per tempo, sì, e non uno o due anni dopo la scadenza, è chiaro che 9 scioperi su 10 non avrebbero motivo d'essere, eccezione fatta per l'Italia. No, sì, però lei qui entra nel merito, lei qui entra nel merito del perché si fanno gli scioperi. Io credo che ci possono essere tante cose da correggere, però insomma, tutto il paese, al di là dei diretti interessati, probabilmente ha protestato per tanti anni sulle migliaia di scioperi selvaggi che ci sono stati in Italia. E insomma, se si comincia a fare qualcosa, non so se sia giusto quello che il governo sta facendo, se si comincia a fare qualcosa non è male, senza limitare naturalmente il diritto di fare lo sciopero, però con termini precisi, con un consenso all'interno delle categorie, con i giorni, insomma, sono cose sicuramente da correggere. Andiamo a sentire i titoli del TG2. Forte calo dell'economia americana, nell'ultimo trimestre il prodotto interno lordo è sceso del 6,2%, giù le borse europee. Il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al disegno di legge per regolare gli scioperi nel settore dei trasporti. Alta rappresentanza, un referendum per proclamare una protesta. Sul testamento biologico Schifani e Fini dicono che serve più tempo per un testo largamente condiviso. Peppino Englaro e lo staff medico indagati per omicidio. Si è suicidato il gioielliere che a Roma nel 2003 uccise due ladri nel suo negozio. Il PM aveva appena riformulato l'accusa da eccesso di legittima difesa a omicidio volontario. Obama dà l'annuncio ufficiale delle tappe del disimpegno dall'Iraq. Il grosso delle truppe andrà via entro l'agosto del 2010, gli altri l'anno successivo. Frattini a Washington incontra Hillary Clinton. Bene, bene. Andiamo a sentire Nicola da Roma, interventi più veloci. Nicola, dica. Buonasera signor Forbice, innanzitutto complimenti per la trasmissione. Beh, Forbice eccezionale, naturalmente, noi più modestamente siamo qui alla Zanzara, io mi chiamo Cruciani, ma va bene lo stesso. Va bene, signor Cruciani, mi scusi per la cosa. Comunque, prego, no, ma è interessante, volevo... perché spero che lei sia passato da forbice al sottoscritto nell'ascolto, per cui... No, comunque senta, io volevo fare una piccola riflessione sull'intercettazione telefoniche. Io faccio soltanto, diciamo, questo ragionamento. Dico, noi uomini comuni, praticamente dell'intercettazione telefonica, praticamente noi non è che noi siamo, cioè almeno personalmente sono favorevole a questa intercettazione telefonica, perché noi non è che ci possiamo preoccupare più di tanto, perché noi che usciamo la mattina, andiamo a lavorare, sì, normalmente roba del genere, noi praticamente in questi casi non è che siamo toccati più di tanto. E dunque? Cioè, quindi praticamente insomma, cioè, sono, io non riesco a capire chi è che si preoccupa più di tanto di queste intercettazioni telefoniche. Beh, chi si preoccupa, Nicola, chi incappa in un'intercettazione telefonica e magari casualmente, magari non sarà lei, magari non sarò io, forse io ho più possibilità di lei, non lo so. Beh, no, però... ma io dicevo, cioè, ma lei nel suo lavoro insomma, cioè, diciamo, chiaramente magari è più soggetto, però io penso che se uno mantiene sempre, diciamo, la correttezza, roba del genere, non è che si può preoccupare più di tanto. Sì, no, ma questo non c'è dubbio, questo non c'è dubbio, però sa, la correttezza, chi la giudica? Per esempio Saccape pensa di essersi comportato e poi alla fine ha ottenuto, sì, anche ragione, ma, in maniera corretta, come? Invece quelle intercettazioni sono state utilizzate per provare che c'era uno scambio e dunque non so quali erano i reati, insomma diversi reati, ma che, vede, io che penso furono che attribuiti, bisogna, cioè che bisogna controllarlo, siamo, io penso che siamo tutti quanti d'accordo, no, ma guardi che alcune notizie chiaramente escono fuori che non dovrebbero uscire, chiaramente insomma, cioè, siamo tutti quanti d'accordo su questo punto qui. L'unica cosa, ecco, che secondo me se tolgono anche questa cosa, cioè, questo è il problema dell'intercettazione alla magistratura, secondo me, giustamente come faceva notare il magistrato, sì, che sì, ha parlato, diciamo, una mezz'oretta fa, insomma, manca una poi... cosa fondamentale, certamente. Nicola, sono d'accordo con lei, la ringrazio, devo andare più veloce perché ci sono altri interventi e mancano 5 minuti. Simone da Lodi. Salve Cusciani, buonasera. Buonasera. Intanto volevo esprimere una solidarietà umana a Englaro, perché ormai siamo alla follia più assoluta, adesso è anche indagato, quindi diciamo ci troviamo in uno stato di diritto un po' confuso. Il mio intervento però era su un altro aspetto, ovviamente intercettazioni. Se io parlo con lei al telefono e uso parole chiave che possono essere intercettate e ritenute gravi, le posso assicurare che saremo immediatamente messi in galera, mentre forse per alcuni livelli tutto viene preso con le pinze, bisogna misurare le parole. Ma chi ha detto che saremo messi in galera? Scusi, che significa saremo messi in galera di fronte a certe intercettazioni? Non ho capito. Ma non lo so, io potrei parlare di lei di qualsiasi argomento e verrebbe così evidentemente valutato per quello che è il contenuto, mentre per altri aspetti, nel caso Sacca Berlusconi, bisogna prendere tutto con le pinze. No, ma chi ha detto che bisogna prendere con le pinze? Il contenuto è stato analizzato, ma lei sta dicendo una cosa che assolutamente non corrisponde al vero. Il contenuto di quelle intercettazioni è stato non solo analizzato, super considerato, e si è arrivati alla conclusione che bisognava archiviare tutto perché non c'erano, come dire, reati evidentemente, per cui chi l'ha detto che non bisogna prendere i magistrati? Come se non l'hanno preso in considerazione? Il punto è che quelle intercettazioni sono uscite e invece andavano distrutte. Ah, per carità, su questo siamo d'accordo, però magari si potrebbe anche entrare nel merito dell'etica, nel senso che poi si può discutere sul fatto che quello sia etico o meno, al di là del fatto che sia non considerato reato. Dal punto di vista etico mi sembra paradossale, sì, ma guardi, che l'etica venga valutato. Sì, ma mi scusi Simone, l'etica, a parte che poi dipende sempre da chi interpreta, da chi vede le cose, naturalmente. Qualcuno può pensare che una cosa sia etica, altri possono pensare che una cosa non sia etica, per cui non è un criterio universale quello dell'etica, un criterio ovvio. Lei appunto giudica quelle cose che non andavano giudicate perché non potevano uscire. Questa è la... Io guardi, in questi giorni potevo mandare tranquillamente, così per solleticare gli istinti di qualche ascoltatore o di qualcuno, di nuovo queste intercettazioni, perché c'era il fatto di cronaca che è uscito, però ho deciso di non mandarle perché quelle cose, un magistrato ha detto che andavano distrutte, le mandammo all'epoca forse commettendo anche un errore, ma c'era, come dire, erano uscite in audio eccetera. c'era la notizia, stavolta non l'abbiamo mandata, ed è su quello che si giudica. Da una cosa, insomma, se io e lei parliamo al telefono e magari siamo amici, metta che siamo amici e parliamo, non so, di donne, di calcio, ci scappano tante cose per telefono, ma anche di raccomandazioni, eccetera. Per cui, però, non è che quelle conversazioni vanno a fine sui giornali, poi, perché in quel se vanno a fine sui giornali sono interpretate magari in maniera distorta. La ringrazio, Simone. Sì, Giorgio da Roma, devo andare veloce. Giorgio da Roma. Sì, velocissimi, buonasera a tutti. Allora, una considerazione, dal mio punto di vista ritengo che le intercettazioni debbano essere assolutamente controllate, non possono essere fatte in maniera impropria né tantomeno disparate o rinnovate di volta in volta a fantasia di un magistrato. Secondo voi ho sentito Sacchià che mi è sembrato dal suo intervento che la sua situazione fosse stata il fatto che siano state passate informazioni dal magistrato al giornalista sia stata appurata dalla magistratura, pertanto il magistrato che ha avuto questo tipo di comportamento intanto dovrebbe essere assolutamente esonerato e messo da parte. Sì. Secondo voi diventa un'arma assolutamente pericolosa per chi può usare questo tipo di atteggiamento nei confronti di persone che possono esprimere un loro punto di vista, un parere o comunque avere un punto di vista diverso da quello che è la parte opposta, diciamo, che può utilizzare la magistratura. Va bene, Giorgio, la ringrazio, ma non c'è tempo per questa sera per altri interventi, cioè per avere interventi più lunghi. Comunque io sono dalla parte di chi dice che le intercettazioni devono essere utilizzate al massimo da parte della magistratura, limitare con questa storia degli indizi di colpevolezza eccetera mi sembra un errore gravissimo. Mirko dalla provincia di Milano. Sì, pronto, buonasera. Io volevo intervenire anch'io sul discorso delle... Sì, velocemente, Mirko. Sì. Io voglio faccio solo una piccola considerazione. L'utilizzo che è stato fatto finora dell'intercettazione ha generato alcuni danni per delle persone, distrutte famiglie, distrutte persone. Quindi comunque sia lo strumento così come pensato oggi ha qualcosa che non funziona. Quindi non mi stupisco che poi il legislatore abbia voluto mettere mano per riparare alcune situazioni che si sono effettivamente verificate. E questo è il punto, Mirko, che poi a forza di esagerazioni e evidentemente di cose che non sono andate nel verso giusto per quello che riguarda le intercettazioni, alla fine è arrivata la mannaia, arriverà la mannaia. Salvatore da Torino per concludere, pochi secondi. Salvatore, dica. Buonasera, Cruciani. Aspetto il premio Pulitzer per lei, anche se non condivido le tantissime sue idee. Vabbè, tralasciamo questa cosa. Mi riferivo essenzialmente al femminismo, fra virgolette, di Berlusconi. Cioè al rapporto Berlusconi-donne. Esatto, non ci dobbiamo dimenticare che la signora Veronica, l'anno scorso mi pare, sua moglie ha chiesto le scuse sulla prima pagina di Repubblica per questo suo comportamento, perciò non è che sono solo gli anti-berlusconiani che attaccano, che fanno, che dicono, cioè, la guerra ce l'ha in casa anche lui per il fatto di questo comportamento. Poi le volevo dire solamente per concludere che per quanto riguarda Sacca, secondo me lei personalmente, ma lei come tanti altri, poi sì, può darsi che io mi sto sbagliando, si confonde molto il penale con il morale, cioè è vero che non c'erano reati là dentro e quindi andavano distrutti, però un presidente del consiglio che oltretutto è proprietario di 3 televisori, sì, insomma certe cose non dovrebbe farli. D'accordo, d'accordo, Salvatore, ho capito. 20:44:30, ci sentiamo con tutti voi lunedì 18:30.